un migliaio e più di aziende, qui è la zona un pochettino più preoccupante, sono perse per strada oltre 4.200 persone che lavoravano in queste aziende, non si è trovato delle soluzioni efficaci, efficienti, e quindi sulle confische delle aziende ci sono delle grandi ombre, bisogna fare molto di più, fare anche molto in fretta per non perdere questo patrimonio, liberandolo dalle presenze mafiose. Le aziende confiscate devono essere messe in grado di trovare chi le può portare avanti, se ne può fare carico, perché non si perda quei posti di lavoro. Ecco, voi avete siglato una serie di accordi anche con Unioncamere proprio per formare anche i manager che dovrebbero occuparsi di queste aziende confiscate. È importante prendere coscienza, fare conoscere, ma stiamo studiando proprio in questi giorni, stiamo lavorando insieme in modo molto silenzioso per fare una grande proposta, perché la politica se ne faccia carico, chi governa se ne faccia carico. Abbiamo messo insieme delle professionalità, delle competenze, ci stanno lavorando chi nel mondo imprenditoriale ha un'esperienza, i magistrati che si sono occupati delle confische, e quindi c'è una squadra che sta lavorando. Ma una cosa la prometto: quando tutto questo viene elaborato, con Radio 24 noi saremo in prima fila.